Amici di Runtime, buonasera, buonasera Marco. Buonasera a tutti. Marco, ma che sta a fare? Ma come c'è? Cosa? Che te sei messo davanti alla faccia? Che è un piccolo presidio per evitare, sai, quel piccolo problema di R. Ma perché sta a fare l'accento svedese? No, che c'è? Ma che non si fa così. Mi sono portato la cosa alla coperta per fare sta cosa. Ho capito, t'hanno spiegato, ma chi t'ha detto? Che hai parlato con Burioni? No, l'ho visto su Facebook. Hai parlato con Teresa Gio, ho capito tutto. Su Facebook come tu. Aspetta, togli che non ti si capisce. Aspetta, che devo togliere un secondo. C'è quattro stagioni di coperta, raga. Cioè, adesso se però mi ammalo, è colpa tua, eh. Va bene, se ti ammali tu, non mi ammalo io, però, capisci? Guarda il lato positivo. Perché vuol dire che l'untore sono io. Siamo due in questa. Però sei già malato, quindi. Sti cazzi, magari sono portatore sano. Secondo me non sarà tanto sano, no, quello vabbè, ma di mio. Oh ragazzi, buonasera. Intanto una premessa: abbiamo rischiato di non andare in onda perché fino a un minuto fa eravamo troppo occupati a ridere, io e il buon Marco Gualdi che è qui con me. Se non sapete perché, però a distanza di sicurezza, a distanza sì, esatto. Circa tre palmi, quattro. E dicevo, se non sapete perché, guardate il link, è un tweet che ho messo, che ho linkato sulla chat della diretta, perché vi farete quattro ricche risate. Anzi, lanciamo il contest di questa sera. Quattro ricche stagioni di risate. La domanda a cui dovrete rispondere dopo aver visto il video è: perché? Chi ci darà la risposta più plausibile? Qual è lo scopo? Esatto, chi ci darà la risposta più plausibile da qui alla fine della diretta vincerà una cena con Marco Gualdi. Allora, plausibile no, convincente. Facciamo convincente perché convincente, effettivamente sì, plausibile. Plausibile forse no, ma quella che ci potrebbe convincere di più, dirà sì, forse è così. Dai. Ok, ci stiamo, perfetto. Ovviamente pagate, paga chi vince. Ovviamente chi, come al solito, chi vince come buona tradizione all'onore di portare a cena Gualdi, insomma. Grazie, sì, infatti io, però... Non ristoranti milanesi. No, no. Magari cinesi magari coreani, bene, ma milanesi, anche del nord. Oriente milanese, va bene, no. Ma nord no. Chi l'avrebbe mai detto che questi cazzo di milanesi chi se lo sarebbe mai creso? Chi se lo sarebbe mai creso? E dire che volevano andarsene. Noi no, restate. Capito, adesso andate. Razza umana come sterminata cambia? Dal milanese imbruttito. Ci esatto. Vabbè. Come cambia il tempo. Allora, avremo tempo di parlarne. Intanto così, volevo dire, intanto salutare gli amici in chat, Lobby Frontali, Peppe Rizzard, Stefano che come al solito poi ci posso recupera. Posso fare una cosa, ma Rizzard che icona c'ha? Oggi c'ha una specie di firmetta. Che c'è scritto? Rizzard, pensa un po'. Pensavo che ci fosse scritto Picard invece, no? No, c'è scritto Rizzard. Forse Rizzard, sì. Forse e comunque tanto dopo ne parliamo. Però in questo momento, come avrete capito, anche oggi per motivi di lotta contro i demoni, ma proprio i demoni, il nostro beneamato Simone Pizzi non è in diretta con noi. Però questa volta ha voluto lasciarci un contributo. È indiretto. Un contributo indiretto che noi vi facciamo ascoltare. Dopodiché, insomma, ne discuteremo se è il caso dopo. Vi permetto che noi non l'abbiamo ancora ascoltato, quindi per non rovinarci la sorpresa. La sorpresa, per cui gustiamoci insieme questo piccolo... Perché l'abbiamo dovuto disinfestare bene, perché veniva da un luogo pieno di microbi. Potrebbe essere anche l'ultimo contributo. Esatto. Vabbè, ascoltiamolo un momento. Magari un addio. Allora cari amici di OGM, purtroppo io questa sera, come già è successo altre volte, non posso partecipare a questa meravigliosa trasmissione. Non posso per motivi di forza maggiore, chissà, sa, insomma, sapete che questo è un periodaccio per me, grosso periodaccio, ma sto bene, non è che so io che c'ho un problema, cioè nel senso è una cosa collaterale, ma che ve frega a voi poi, insomma. Comunque volevo dirvi che volevo raccontare questo aneddoto, giusto per mandare un po' di insulti. Perché a un certo punto, mentre stavo al pronto soccorso a Sant'Andrea oggi, per terzi, non per me, perché non mi sono fatto niente, tranquillo, ma poi che cazzo me frega a voi, cioè, nel senso, ok. A un certo punto passa un'infermiera, una dottoressa, una studentessa, non è che capisco, non è che lì poi ognuno è vestito in colore diverso, no? E passa sta tizia che praticamente con altri due o tre suoi colleghi, e mentre, capito, passa proprio al centro della sala del pronto soccorso, della sala d'attesa, quindi insomma dove c'è più gente possibile, ma qui c'è da fare, ma allora quel paziente del coronavirus che abbiamo visitato oggi, abbiamo fatto la lastra ridendo come una scema. Ora chiaramente si capiva che era una scema questa, ma proprio una scema brutta, cioè proprio... Io penso che è una cretinezza che un giorno spero che gli si rimponga a livello di salute nella vita. Però se uno comunque magari un vecchietto, uno che la sente magari di straforo o roba del genere, se agita fai scattare il panico, cioè sei non solo un irresponsabile, ma sei una maledetta stronza. E quindi io spero, insomma, che tutti guariamo dal coronavirus tranne te. Ecco, diciamo questo. Ok, ciao, buon ascolto a tutti. Grazie Simone con questa piccola testimonianza. Che bella curia, quindi ce lo dobbiamo prendere per poi guarire. Esatto, beh, così facciamo gli anticorpi. Esatto, esatto. Probabilmente questa studentessa barra infermiera barra dottoressa del pronto soccorso, che non citeremo, doveva essere la fidanzata del pizzettaro che abbiamo visto nel video, che è spero probabile, stata... Il problema è che ha chiesto un coronavirus al volo e lei ne ha buttato uno così, un Antonio Inoki al 4, che insomma... Oh, vabbè. Intanto la prima ipotesi di spiegazione c'era da appunto Peppe Rizzard, che dice: è un giornalista che si è autosminchiato un femore per poi infiltrarsi in un pronto soccorso e fare lo scoop. Aspetta, forse era Pizzi. Tutto quadro. No, è troppo leggero Pizzi. Cioè, non Pizzi non potrebbe mai salire sopra un bancone. Ma infatti manco quello c'è salito più di no, tanto. No, quello c'è salito. Vabbè ragazzi, noi attendiamo ancora le vostre indicazioni sul perché, perché io non so se riuscirò ad andare uno a dormire scopo plausibile, cioè con questa cosa che mi ronza per la testa. Oh vabbè, insomma, cosa è successo oggi? Questo fine settimana è stato, come dire, flagellato dalle notizie che ci hanno portato praticamente in cima alla hit parade del coronavirus. Eh sì, del baby, però l'abbiamo chiamato il baby alla fine? E abbiamo deciso baby. E mai cosa fu più profetica, baby, insomma, baby. Perché infatti da quel momento siamo stati noi, il baby virus è arrivato da noi. Purtroppo ci sono state le prime vittime, però tutto sommato ci sta, insomma, può capitare. Tra l'altro cominciamo a fare come dire, non è un parassita che ti prendi se fai sesso con le capre, no, è una cosa che vi è aerea probabilmente, quindi... Cerchiamo di come dire qualche pillola di cose serie, qualche piccola strada di cose serie tra una stronzata e l'altra, che secondo me fa sempre bene, perché in televisione fanno a gara chi deve essere più sensazionalista dell'altro, quindi i giornali non ne parliamo. Infatti oggi avremmo dovuto fare morti di bestemmie, secondo me, però diciamolo, premesso che l'affermazione non vuole essere, diciamo, come dire, con cognizione di causa, però non vogliamo neanche dire in maniera superficiale, perché poi qualcuno si incazza, che questo virus sia come una qualunque influenza. Però diciamo anche un'altra cosa: il tasso di infettività di contagio di questo virus è particolarmente aggressivo, nel senso che è come facile, influenza, cioè. È abbastanza, diciamo, facile. Beh, entrare a contatto, infatti, però è anche vero che nella stragrande maggioranza dei casi, parliamo di più del 99% dei casi, il decorso di questa malattia è quello di una qualunque altra influenza, qualche giorno di sintomi più o meno evidenti, quindi febbre, qualche fastidio respiratorio e così via, per poi lasciare l'ospite sano come era prima. Quindi più di prima. Anche più di prima. Quindi che succede? Che se non siamo persone immunodepresse, che non abbiamo patologie pregresse, che non siamo anziani o per qualunque motivo appunto con un sistema immunitario deficitario, indebolito, probabilmente la prendiamo e neanche ce ne rendiamo conto. Nel senso che magari saremo asintomatici o quasi, ci prenderemo la nostra pasticchetta di paracetamolo o di acido acetilsalicilico, per non fare pubblicità, 3-4 giorni, la cureremo con una qualunque altra influenza e non ci penseremo più. I casi che invece vanno alla ribalta delle cronache sono quelli che devono fare notizia. Poi diventi immune e neanche lo sai e continui a metterti le mascherine inutilmente. Cioè, pensa un po'. Te rendi neanche conto. Cioè. Dopo che l'hai pagata 150 euro quella di Fendi, per esempio, sì, no? Esatto, sì, la mascherendi. Comunque è una brutta situazione, perché già abbiamo visto che, dai, quanti sono i casi adesso? 160, saranno arrivati anche di più, forse 170. Ecco, 171, 171, no, credo che stiamo sopra i 200, ma in realtà i decessi in Italia finora rappresentano persone di una certa età, ovviamente ce ne dispiace. Che è una gran parte dell'Italia, però, però si parla appunto di ultra ottantenni, in alcuni casi malati oncologici, quindi insomma prima di parlare di epidemie, di morte, di distruzione, di presagi infausti, cerchiamo di dare una giusta proporzione alle cose. Io quello cerco di dire. Poi è chiaro, non sono esperto in materia, non parlo con nessun titolo, però la cosa bella è che tutti quanti stanno sconsigliando di venire in Italia. Gli italiani all'estero vengono rimandati al mittente. È stato il caso di un volo all'Italia che doveva lasciare non so quanti turisti italiani alle Mauritius. Le Mauritius hanno detto: no, no. Vabbè. Ma la cosa più bella, ragazzi, è successa, credo, la cosa più divertente tra quelle di cui ci permettiamo di ridere, credo sia successa a Vigevano, dove era stato organizzato un simposio, un convegno sul coronavirus. È stato cancellato. C'è stato problema, sì, infatti. E sai perché? Perché mancavano le salviette del cesso? No. No. Perché il rinfresco non era buono? No. No, però ci sto vicino. Focolaino. Che non c'erano le minime adeguate norme di sicurezza antincendio. Ma chi se ne frega? No, allora, quale sarà questo arcane motivo per cui devi cancellare un convegno sul coronavirus? C'era il coronavirus, mi pare ovvio. Ma poi scusa, è normale che se tu fai un convegno, scusa, se tu fai un convegno, scusa, su Batman, invidi, cioè, Batman, esatto, mi pare, ma se c'è il coronavirus tu studi, no, ci parli proprio lì, sta lì, esatto, gli fai le domande, ma lei, cioè, allora, corona, ma perché, come, che scopo ha nella vita? No, niente, annulli tutto quanto. Cioè, una volta che avevi l'occasione di fare lo scoop, io non mi capacito. Vabbè, comunque, vabbè ragazzi, che vi devo dire, in tutto questo, appunto, il nord è contingentato, zone rosse, cordoni sanitari, sembrano un po' un telefilm, un po' un videogioco. Stiamo aspettando di sentire i clickers che si avvicinano da Monza, praticamente, in direzione di Massa Lombarda. No, buttiamo, non scenderebbero mai, regioni a caso. Non, insomma, scenderebbero mai sotto una certa latitudine, insomma. Cioè, intanto Pier G, che ha aggiornato il Norton, si è unito agli ascoltatori. Ciao Pier G. E dobbiamo dare una brutta notizia, perché forse è successo questa settimana il coccodrillo di Don De Frate. Aspetta, ci organizziamo. Ah, ok. Dai, cioè, come si chiama? Frate, non ricordo mai il personaggio. Che tristezza. Fallo Bucci, che poverino. È morto Don Bastiano, ragazzi. Scusate, Bastiano, no? Sì. Non mi ricordo mai. Effettivamente è una cosa anche un po' triste per... Tra l'altro oggi è l'anniversario della morte di Alberto Sordi, e ci dispiace ancora di più. Tristezza. E le due cose in qualche modo si collegano, perché appunto in settimana è morto Flavio Bucci, l'attore che nel Marchese del Grillo interpretava Don Bastiano. Era un caratterista, un attore, diciamo, magari non noto e più, perlomeno per nome e per cognome, ma che comunque nel suo piccolo ha fatto la storia, diciamo, del cinema italiano. E noi lo vogliamo ricordare, eh sì, perché ci è dispiaciuto. C'è il contributo audio? No. E no, sinceramente, no, mi prendi un po' la sprovvista. Però posso rimettere quello di Pizzi, se vuoi. No. Allora, un momento. Niente di contributo. Cordoglio. C'è tanto cordoglio, perché sapete che è morto Kirk Douglas qualche giorno fa. E non ha lasciato un cazzo ai figli. Soprattutto a Michael Douglas, ha detto: mi spiace, hai già i tuoi soldi. Perché vuoi i miei? Perché vuoi i miei? Maledetto, maledetto. Posso dire che secondo me non fa una piega? Cioè, voglio dire, non è che uno deve sempre piovere sul bagnato, ti pare? E ha dato tutti i soldi in beneficenza. Ma io so che li ha dati a terzi, non avevo capito che... Vabbè, si è fatto beneficenza. Dice in beneficenza. Poi se questi terzi erano beneficenti o no, non lo sapremo. O erano terze. O erano terze e basta. Però vabbè, in ogni caso... Ho fatto questa opera di... Beh, se l'ha fatto, bravo, cioè. Mamma, sì, dai. Perché non l'ha fatto prima che era in vita? Che ci faceva con 61 milioni? Cioè, ma che cazzo ci fai con 61 milioni di dollari? C'hai 106 anni? Uno shampoo di vita? Cioè. Ma poi ci pensi che... Ma che pro, aspettare la tua morte per donare soldi? Per un attore di oggi, di quelli, diciamo, veramente importanti, 60 milioni di dollari non sono neanche niente. Cioè, con uno spot pubblicitario un altro po' se li guadagnano. Allora, ma se c'ha 106 anni, una bella cifra, insomma. Vabbè, diciamo che uno che la vita se l'è goduta, Kirk Douglas, credo, no? Sì, sì, a voglia. E va bene. Oh, ma a proposito di personaggi che perché sono morti, stiamo parlando di belle cose stasera, insomma, cose proprio, siamo in veste funerea e cinerea. Sì, tra l'altro questa notizia, io credo che bene o male tutti abbiate intuito il titolo della puntata di oggi. Sicuramente no. Uno dei... No, sicuramente sì, perché ne parlavano in chat mentre si facevano i fatti loro anche prima. Perché cos'è successo sabato scorso, il 22 febbraio? Lo stuntman statunitense Michael Hughes, detto Mad Mike, è morto. Che non era detto Wise Mike, cioè Mike il saggio. Beh, o Smart Mike. Ho capito, ma se fai lo stuntman, voglio dire, non è che puoi essere particolarmente wise. No, però potresti essere prudente. Lo stuntman prudente, cioè uno pensa che palle. Ho capito. Cioè. Lo stuntman prudente può fare la controfigura di Don Matteo, non è che può fare più di quello. Vabbè, perché no? Certo. Però poi finisci che credi che la terra sia piatta. fatto sta che lui ha provato a dimostrare la sua tesi, e la cosa che lo ossessionava in certo da tempo. In certo modo ce lo ha dimostrato, cioè quando ha toccato il terra si è appiattito anche lui. Ma è così. La cosa assurda è che se proprio vuoi dimostrarlo, perché lui evidentemente deve aver deciso che usare un normale aeroplano per salire di cuore era complotto, perché magari se ti mettono il gas in cabina, ti tramortiscono, ti fanno vedere il mondo curvo, oppure delle lenti che deformano. Allora dice: che faccio? Me lo faccio io il razzo, salgo io sopra la stratosfera, vi faccio vedere io che la terra è piatta. Ma non so, la mongolfiera, per dire, che magari non arriva nella stratosfera. Ho capito, per vedere la curvatura comunque, devi uscire dalla curvatura, devi andare la curvatura terrestre, no, la curvatura di Star Trek, di quella già parliamo lì, dopo già da lì un pochino riesce a vedere, non c'è bisogno di vederla proprio curva. Il fatto sta che poi è come quello che è salito al terzo piano di un palazzo, ha detto: vedi, non si vede la curvatura. Ha fatto come Will e Coyote. Ci dispiace per lui. Credo che lo stanno ancora raschiando con una spatola. Mi dispiace per lui, però tutto sommato. Però altre brutte notizie del mondo dello spettacolo. Darwin. Brutte notizie del mondo dello spettacolo sul nostro bene amato Razzi. Brutte, ma non troppo, dai. Noto comico, non strano, appunto. Dai, su, è un senatore, è un politico. Adesso non è eletto, non è in carica sì. Niente. Dai, no, è un ex senatore. No, è finalmente. Cioè, dai. Comunque, l'ex senatore abruzzese Antonio Razzi, famoso insieme a Scilipoti per essere stato, tra virgolette, l'ago della bilancia di alcuni governi passati, zompando, facendo il salto della quaglia in più di un'occasione, aiutando veramente Berlusconi a non cadere. Anche lui c'ha 61 milioni di dollari da devolvere in beneficenza, mi sa. Probabilmente sì. Da parte come questa impressione. Fatto sta che si è trovato ricoverato a Saragozza per problemi cardiaci. Ovviamente in Spagna, quindi insomma, se uno che pure l'altro se va a godere la vita, c'è 61 milioni di dollari, se va a godere la vita. Cioè, poi lui dice che l'abbiano ricoverato in un ospedale militare. Vabbè, comunque, insomma, ci dispiace, ma insomma, per fortuna pare che non sia particolarmente critica la cosa, perché se è riuscito a farsi un selfie a farsi comunque delle foto su Facebook durante il ricovero, evidentemente poi così male non dovrebbe essere stato. Noi facciamo... adesso si fa chiudere lì per non tornare in Italia. Beh, chiamalo scemo, comunque noi facciamo. Lui è abruzzese. Marco è Abruzzo. No, è Marco che c'entra. Mi sembra che si sono le Marche. Stanno chiudendo tutte le scuole. Cioè, volevano chiuderle e poi hanno detto: no, le ripriamole. Mentre stavano facendo il comunicato ufficiale della chiusura delle scuole, hanno detto: ma no, abbiamo cambiato idea, non le chiudiamo più. Cioè, è successa una cosa del genere oggi. Quindi non lo so, non ci sto capendo più nulla. So che ci sono dei contagi in Piemonte, ci sono in Veneto, la maggior parte ci sono nell'operosa Lombardia. Ogni tanto se ne smentisce qualcuno in altre regioni, ma sulle Marche al momento non sapevo. A Roma quante ce ne sono? A Roma hanno smentito due casi a Castelli, hanno smentito un caso l'altro giorno dal Grassi di Ostia. Al momento restano i tre che storici, dentro, quelli esatto, che grazie alle cure dei medici dello Spallanzani praticamente sono in guarigione, se non guariti. Il marito della coppia cinese è stato dichiarato guarito. La moglie della coppia cinese è ancora in terapia intensiva, ma per patologie pregresse, quindi a quanto pare la carica virale del coronavirus dovrebbe essere stata azzerata. Il ricercatore italiano che è tornato dal Wuhan è anche lui stato dimesso, quindi anche qui diciamo che fortunatamente è vero, non ci sono terapie specifiche, è vero, non c'è un vaccino, però con le dovute cure e con la dovuta fortuna, insomma, la questione si risolve. Cioè, diciamo che è più caso di sfortuna che di fortuna. Cioè, se sei sfortunato te becca proprio male, ma diciamo che nella grande maggioranza dei casi, insomma, non ci sono cose particolari. No, ma poi non vorrei essere, come dire, negativista, però mi viene da pensare e da dire anche che il caso più sfortunato è quello di finire in ospedale, perché poi è lì che t'acciacchi veramente, perché dall'ospedale non si riesce. Di batteri, di crucibolo, virus, crucibolo della morte, insomma, di cose mortali. Vabbè, ma all'ospedale, cioè, se non trovi le malattie lì, cioè è come se non trovi il coronavirus al simposio sul coronavirus, cioè un po' rimane deluso. Quindi è normale pure trovarlo, però vabbè, insomma, tutto sommato possiamo dire che a Roma stiamo tranquilli. Tu sei tranquillo, io sono tranquillo. Quindi, sai che fine ha fatto? Però passo Corese, non a Roma. Attenzione. Però diciamo che conosciamo gente che proprio tranquilla tranquilla non sta a Roma, che non ci va al ristorante giapponese perché poi le prende il coronavirus. Che scherzi, pericolosissimo. A Roma. A Roma. Però il virus sta a Milano. Tra l'altro a Milano per solidarietà. Però lo secernono proprio i cinesi, capito? Per odio razziale nei nostri confronti. Grande, no, grande lezione di, come dire, di senso civico di tutte, di molte, leggevo oggi, attività cinesi a Milano e Lombardia, quindi bar, ristoranti, centri massaggio, eccetera, che hanno deciso di chiudere. Centro massaggio. Centro poi. Massaggio chiude le. Va bene, va bene. No, intanto Pier Gita, c'era quel listino che ti ho fatto vedere. Raccontando tra loro tutta questa storia, insomma, di questi casini che stanno succedendo, le scuole chiuse fino a sabato se non di più, le università, i bar chiusi, tutti chiusi alle 18. Allora, quindi le nostre parti hanno consigliato di andare praticamente a chiamare il 1500 o comunque dei numeri specializzati se si è andate a Milano dopo il primo di febbraio. Non comunque a Milano, determinate nei comuni della zona della esatto, diciamo, comunque no, perché in alcune comunicazioni dicevano Lombardia in generale, così pure se era andato dove era cazzo Imperius, però in realtà in alcuni comuni. Che va bene, sì, ma se poi tu invece non ci sei andato, ma hai avuto contatti con uno che viene da quei comuni, non in Lombardia, cioè sempre in Lombardia, ma non in quei comuni, non lo saprai mai. Vabbè, ho capito. Il discorso è che da qualche parte si deve partire per cercare di fare un, come dire, un tracciamento biografico, bibliografico e antenografico. Fare un muro alto fino al soffitto, sempre in questi casi. Funziona sempre. E sopra il soffitto ci metti tanti mitragliatori che quando arriva l'infetto lo spari. Non fare come quelli che, spaventati dal coronavirus in provincia di Milano, sono scappati dalla zona rossa, quindi hanno violato il coprifuoco, si sono lanciati verso le province di appartenenza, in questo caso l'Irpinia, per sentirsi al sicuro. Morale della favola, questo ragazzo ha fatto così, ha preso un autobus, così pare abbiano ricostruito questo percorso, ha preso un autobus dalla Lombardia ed è arrivato fino all'Irpinia per, diciamo così, secondo lui mettersi in salvo. È finita che hanno messo in quarantena lui e tutta la famiglia, perché si è andato a è anche tutto l'autobus. E dovranno, secondo me, probabilmente fare dei test. La questione è ragazzi, dopo non vi lamentate dicendo qualcosa non ha funzionato, la macchina della prevenzione non è stata all'altezza. Se non collaboriamo ognuno di noi per quello che possiamo, quindi con un atteggiamento raziocinante, civico, laviamoci le mani, non facciamo cose che non è necessario fare, non diventiamo degli untori. Se sfortunatamente siete in una zona a rischio, l'unico suggerimento valido è: state a casa tranquilli, guardatevi una bella serie TV, un bel film su Netflix, quello che volete. Poi se a un certo punto sentite chi è? Sono il coronavirus. Voi non aprite. Basta, finito. Cioè, non l'avete visto, l'inferno è fuori. Voi, cioè, state dentro casa. Chi è? Più o meno siamo lì, esatto. Sono il coronavirus. E che vuoi? Voglio abbracciarti forte forte. No, non te voglio. Bravo, è così. Devi essere sempre no. Lui sta dentro casa e lui sta fuori, no? Ma il Corriere. Allora, sai cosa è successo? Abbiamo scoperto che il coronavirus sta mutando, perché è furbo lui, vuole sopravvivere. Sai cosa fa quando bussa alla porta e tu chiedi chi è? Pronti? Quell'accento svedese, no? No, quello lo sa che lo sgami. È solo sto cazzo, cioè. Facciamo una prova. No, tu non so io. Chi è? Amazon. Ah, che bravo, vengo subito ad aprire. Capito? E te in cura così. Però poi c'è il furbo che: dove viene il pacchetto? Dalla Cina. No, dalla no, Cina. Vabbè. È finito, è fatto, basta. No, facciamo in modo anche di dire anche questa cosa: tramite gli oggetti, i pacchi che arrivano dalla Cina, il virus non si dovrebbe propagare, a meno che non ci hanno scatarrato mutande usate, appena usate, insomma. Preservativi usate, insomma, cioè, no, evitate queste cose, cioè, ragazzi. Ma quello penso altre malattie. Non è il caso, non è il caso. Oh, ci racconta Davide Gatti, che ovviamente è di Milano e provincia, adesso non so bene il comune, però comunque è di Milano e di Codogno. Forse di Cologno. Però attenzione, che per una consonante secondo me potrebbe scattare la quarantena. Sì, sì, comunque ci dice: oggi è stata una giornata surreale in provincia di Milano, il tempo di percorrenza ufficio lavoro sfiorava il tempo tipico di Ferragosto, lo stesso al Carrefour, davvero 10 persone e tutti i negozi completamente vuoti, forse anche il peggio problema, di Ferragosto. No, il problema è che erano vuoti anche di roba da magnana, perché c'è stato l'assalto in alcuni casi, non in tutto, è stato l'assalto ai beni di prima necessità, ma anche di seconda e di terza e a volte di quarta necessità, cioè proprio si sono accaparrati tutto, come dice giustamente Davide. Certo che se fai un discorso, diciamo, se parli cercando di dare delle spiegazioni ad un essere senziente, si riesce a fare diciamo ad avere una certa forma di profilassi. Metà degli italiani però non sono senzienti e seguono le istruzioni della D'Urso o dell'allenatore nel pallone, per non parlare di quello lì. Esatto, la D'Urso che ieri chiedeva, mi hanno raccontato che in un'intervista la D'Urso a Conte, in qualità di dottoressa Gio, perché esatto, ricordiamoci, ha laureata, chiedeva a Conte: tu, cioè dandogli del tu ovviamente, perché tu vai da Pinco Pallino, dal Presidente del Consiglio, gli dai del tu. Tu ci devi dire che cosa dobbiamo fare, no, perché Conte pure lui è un esperto, cioè, che cosa, ma noi possiamo andare, che cosa possiamo fare? Conte, cioè, guardate, basta, lavatevi le mani, non andare nei posti dove si è detto di non andare, dove ci sono le guardie, dove c'è il cordone rosso, dove si deve andare, il resto potete fare quello che... Sì, ma tu ci devi dire se possiamo prendere la metropolitana. La metropolitana si può prendere? E Conte ha detto: mi dispiace tanto se ti do del tu pure io. Così a questo punto semplice: la metropolitana è chiusa? No, e non ci potete andare. Ma guarda che, cioè, voglio dire, so semplice, che la semplicità so che è l'occasione per blastare il già spesso bistrattato Conte, però stavolta in qualche modo ha ragione, nel senso che le disposizioni vengono modellate, vengono modulate di volta in volta in base alle zone e alla gravità della situazione, però non è che dobbiamo smettere di campare, che secondo me dovremmo farlo in base alla conoscente, cioè alla cultura media dell'italiano, perché che è zero, quindi dovrebbero fare: ok, questo non ci arrivano, quarantiniamo tutto, cioè intanto non ci arrivano, cioè, questo punto facciamo prima, poi oh, guarda, abbiamo fatto per tutti, però sappiate che se tu usi il raziocinio lo sai che lì è tranquilla questa cosa, però stai tranquilli, secondo me c'è proprio un problema di ignoranza. C'erano le madri oggi che impazzivano nelle chat, perché io ho la socia che praticamente, essendo madre, c'ha le chat dei genitori, che è bellissimo. Oh mamma mia, sono bellissime, ragazzi, sono uno spunto di odio verso i genitori. Neurodrom penso che sti giorni si scatenerà, ed è bellissimo, ma anche perché, il signor distruggere, sì è bellissimo, perché praticamente sei di questa madre: no, perché c'è mio figlio che è tornato dal Messico, e fin qui è tornato dal Messico, ma non lo vogliono far rientrare a scuola perché vogliono un certificato che praticamente sei non in buona salute, ma che non hai, non mi ricordo esattamente come si chiama, che non hai il virus, c'è proprio una certificazione che non hai, sei esente, che non sei pericoloso per nessuno. Ma scusa, uno che torna dal Messico può non avere la corona secondo te? È vero, però non virus. Cioè, e lì giustamente, cioè, allora perché tu, ma quanti casi di morti e di infetti ci sono stati in Messico? A me non ne risultano, cioè, però se torni dal Messico non puoi entrare a scuola. Cioè, ma come cazzo ti viene in mente? Guarda, cioè, quindi se vieni dalla Francia, se vieni dalla Germania, cioè se tu vai fuori dall'Italia, tipo a San Marino, poi non puoi tornare indietro, cioè cosa che non riesco a capire. Queste sono le cose, vai in Africa dove adesso è pieno così dei coronavirus, infatti in Africa muoiono pieno così, cioè torni, no, non puoi, morivano pure prima. C'è la follia completa, la gente non sa veramente che cazzo fa. Sì, Davide, lo abbiamo raccontato poco fa, che un aereo all'Italia pieno di turisti che dovevano andare a fare la svernata alle Mauritius è stato rimandato indietro. Tra l'altro, lo stesso Davide ci diceva poco fa: ma Salvini non dice nulla al riguardo. Non dice nulla, sta facendo lo sciacallo più del solito. Dice che ovviamente è tutta colpa del governo se ci sono. È colpa di Conte. Conte si deve dimettere perché non ha chiuso le frontiere quando doveva. E pensa che erano gli stessi che dicevano: ma perché avete bloccato gli aerei con la Cina? Ma perché mai l'aveste dovuto fare? Questa è una cosa gravissima, la prendono male i cinesi. E come dice Birgi, aiutateci a casa nostra, giustamente. Adesso lo slogan deve essere, per coerenza, deve essere quello. No, vabbè, cioè, lo sciagallaggio. Tra chi è che gli ha dato stranamente dello sciagallo ultimamente a Salvini? Chi non gliel'ha dato? No, no, chi ufficialmente gliel'ha dato? Credo Conte. No, più Conte, di qualcuno, sì. Comunque. Allora non vorrei sbagliare. Una ministra, forse. Adesso non ricordo. Beh, guarda, bene. Non vorrei mettere, diciamo, in bocca a nessuno parole non sue, però voglio dire, facciamo prima a dire chi non gli ha dato dello sciagallo, quindi. Che tra l'altro mi sembra che, a proposito di Lega, mi sembra che abbia annullato tutte quante i comizi nel nord-est ultimamente, perché per timore, perché giustamente lui non può fare riunire i poveri leghisti che sono già molano. No, no, guarda, non lo so, perché lui continua a dire andrò in tutte le regioni dove c'è bisogno, ma nessuno ha bisogno di te, innanzitutto. Citofono per citofono a verificare se c'è della lucidità. Scusi, lei è malato? Lei c'ha il corona, posso salire? Perché dovrebbe così le do la possibilità di difendersi. Bello, stupendo. Ma invece quel post di Casa Pound che informa i camerati, che esatto, sì, tutti i camerati, l'ambulatorio Casa Pound, esatto, venite da noi, e gente, sì, andate venitevi tutti, ci pensano loro, vai andate. Vabbè ragazzi, cioè siamo proprio all'eresia e alla follia. E vabbè, allora voglio fare una domanda in chat specifica e diretta, poi vi spiego perché. Lobby, ci sei? No. Palesati, Lobby, se ci sei in chat. Secondo me no, non c'è. Ma io pure. No, perché prima c'era. Ma io a un certo punto mi sarei messo paura. Ti comunque, devi spaventare! Comunque c'è gente che comincia anche ad approfittare di questa situazione. Allora, Monza, starnutisce al supermercato e poi scappa con la spesa. Sto troppo a rosicalo, lo fai? Lo so, purtroppo. Anche il ristorante Famila, cioè il ristorante, perdono, al supermercato Famila. Ah, ce l'abbiamo anche noi là, sì, il Famila, sì. Che poi questo è tra l'altro un anziano, uno che vedi, uno che la sa lunga, un umarello che non aveva niente da fare, starnutisce. Sabato pomeriggio si è avvicinato alle casse automatiche, tra l'altro le casse automatiche, con un sacchetto pieno di spesa. Poi si è accasciato sul bancone e ha chiesto aiuto ai cassieri presenti, simulando un malore. Si è accasciato sul bancone del centro informazioni e starnutiva rumorosamente. Tra l'altro doveva tossire, cioè vabbè. Ha raccontato una cliente presente. Le notizie dei contagi del coronavirus delle ultime ore hanno agitato le commesse del punto vendita, che si sono allontanate dall'uomo, temendo per la loro salute. Nessuno è riuscito a fermarlo. Improvvisamente l'anziano ha scavalcato l'impianto di sicurezza ed è scappato con il sacchetto pieno di spesa. Nella sorpresa generale nessuno è riuscito a fermarlo. Insomma, l'ha fatta franca davanti a clienti e commesse. Che dire? È un applauso, nel senso che un applauso però con i guanti di latti, cioè, un minimo di profilassi sempre. Assolutamente. Ma invece vogliamo parlare della gente che si sta facendo praticamente la mucchina in casa con dosi più o meno variabili di barichina e non so che altro? Oh, nel frattempo, un momento, ci prendiamo un momentino di pausa, perché siccome vedo che c'è qui Lobby Frontali che è tornato ad ascoltarci, gli volevo fare un piccolo regalo perché prima era assente al momento giusto. I hurt myself. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real, the needle tears a hole, the old familiar sting. Beh, ragazzi, io entro così sfumandola così perché abbiamo approfittato mentre Lobby Frontali si rigustava Earth, noi abbiamo approfittato per ascoltare un attimo un video che ha condiviso sulla chat ufficiale di Morti di Bestemmie, in cui, ragazzi, è successo l'incredibile, perché una incauta, diciamo così, giornalista di quale TG, tra l'altro? No, sono da TG Press. Di un TG, insomma, TG Mesto, penso, forse TG Mesto, è andata a Vogue, quindi in pieno Veneto, a intervistare che 3, sembra, 4 sembra una parola creata da Elio, wow, Gane, infatti, cioè, sì, ma secondo me è una parola, insomma, è andata ad intervistare questi tizi che stavano allegramente ubriacandosi di spritz mentre giocavano a carte in un bar, cosa che fanno normalmente, cioè non è che si stavano ubriacando, stavano passando il pomeriggio come sempre, come sempre. Lei è andata a dire: ah, ma sapete che c'è il coronavirus, questi proprio completamente impassibili, ma noi stiamo, abbiamo l'alcol, lei, che lei, ci protegge, fatto, ma lei è nel, no, che abbiamo, no, l'alcol che ci protegge. Guarda, è una cosa seria, si può morire. Ah, allora adesso che me l'ha detto sono un po' preoccupato. Cioè, ragazzi, dei geni, oltretutto sono riusciti. No, perché questi anziani che giocavano a carte con cinesi, ma io non ho mai visto cinesi che giocavano a carte qui, guarda. Cioè, devo tanto... dire che sono... poi beccare dei veneti in quel momento, che non bestemmiano in 20, esatto, parole, in quel momento è stato un atto eroico. Il giornalista si è resa conto che stava facendo una cosa inutile e anche stupida. Quindi sì, continuare a parlare. Paolo. Siamo a livello di quello della pizza di prima, sì. Ah, tra l'altro, noi stiamo aspettando ancora delle Lobby, la vostra mancanza di fantasia mi lascia basito. Guardate. Lobby, asciugati un po' la lacrimuccia per i Nine Inch Nails, che insomma condividiamo con te, però dobbiamo riuscire a guardare oltre. Hai visto il video che ho condiviso in chat prima? Guarda, lo rimetto qui perché ho bisogno della tua consulenza professionale, Robby. Ci devi spiegare, esatto, tu sei perché un professionista della mente, quindi sai cosa può portare, cosa gli ha balenato, qualche oltre impulso alla strano GB, qualche persona a fare delle cose che normalmente non farebbe, credo, spero anche. Che sono veramente, no, che poi sono quelle cose che puoi fare una volta nella vita, perché la seconda sei morto. No, la seconda volta potresti essere morto, invece in questo caso avrebbe ancora la possibilità di farlo una seconda volta. Non so perché, ma avrebbe la seconda possibilità. Però vedi, quando Robby mi dà queste risposte così tecniche, così però austere, così nette, fredde, che autolesionismo. Dai, un po', metticela un po' di creatività, perlomeno. Cioè, io l'autolesionismo non uso la pizza. Faccio una diagnosi, uso di pluripolarità, mi butto con i coltelli, non mi lancio, esatto, su un tappeto di chiodi dritti. oppure mi lancio su un tappeto di Fro con citati, un paio di forbici in mano, anche volendo, ma non con la pizza. Cioè la pizza che c'è, non la vedo particolarmente, cioè. Nel frattempo Davide, che ha visto il filmato della giornalista, dice: quei tipi erano un esempio di esseri non senzienti, e sto parlando della reporter, e non ha tutti i torti. Gli altri erano magari vagamente alticci, ma insomma non di più. Beh, c'erano tre bei spritz davanti, insomma, quindi d'altra parte lo spritz, quello che avremmo potuto bere anche noi questa sera prima della diretta se tu ci fossi stato. Però purtroppo ero a lavorare, c'ho questo brutto vizio che il coronavirus ci sta cercando di togliere. Ma scusa, era l'ora del, era l'happy hour, era l'ora dell'aperitivo, quale lavoro? Ma io purtroppo non ero happy in quel momento, quindi I am very happy because the pop is corn, diceva il successo regionale. Mamma mia, io ho finito le notizie. Mentre tu dici qualche cosa di stupido, perché non mi aspetto altro più del solito. Esatto, cioè, io cerco qualche notizia interessante tipo ultima ora, tipo non so. Ma io ti dico, possiamo anche introdurre la rubrica quella lì, perché niente ci vieta oggi di fare una diretta un po' più corta. Dai, mettiamo quella rubrichina lì un momento. Marco, siamo arrivati al giro di boa, 5 di 10, che non è un Borg. 5 di 10, sì, siamo arrivati a metà della storia, che cazzo sta succedendo? Diciamo che stanno succedendo cose con un ritmo che non c'entra un cazzo con quella principale di storia. È quella la cosa un po' strana, no? Cioè, sottoplot, indicazioni su indicazioni, però qua abbiamo ancora 5 puntate, deve quagliare tutto. Che cazzo? No, in realtà potrebbe succedere tante cose, potrebbero succedere in queste 5 puntate, da giustificare il fatto che siano 5 puntate che mancano, il 10 in totale. Il problema è che, non so, quest'ultima puntata mi ha lasciato un po'... In questa puntata vediamo Picard e i suoi... Picard, per restare in tema. Certo. E i suoi che... fanno un lavoro sotto copertura, diciamo così. Sì, diciamo così. Picard si traveste da vecchio pirata sfregiato. Cioè, godiamoci questo momento. Cristobal Rios si traveste da pappone galattico. Pochi altro. Voi mi dovete dire una cosa. Se avete visto, intanto salutiamo Andrea Zabotto, che dice: buon salve a tutti. Ciao Andrea, ciao, ciao. Ben trovato in diretta su OGM. Oltre insisti? Gastricamente maleducati. Bravo. Buttare là delle cose. Vabbè, se a caso funziona sempre. Allora, ti volevo fare questa domanda, sì. Perché un francese dovrebbe fare il finto francese? Perché Picard, che francese, dovrebbe parlare come l'ispettore Clouseau? Con l'accento francese? Beh, perché probabilmente nell'originale non c'ha l'accento francese. Lui infatti non parla francese. Cioè, lui a un certo punto all'inizio del film fa vedere che ha studiato il francese, ma in qualche modo non lo sa. Non capisco. Io sono convinto che con la storia del tè la situazione gli è scappata di mano. Lo trattano da inglese a tutti gli effetti. Esatto, ma non lo so. Ma poi ce l'ha buttata lui un po' questa cosa. In ogni caso, allora, lui fa l'infiltrato... questa puntata che è un po' così. Allora, innanzitutto è un po' poco Star Trek. 9 che spara con questi fucili a 45 gradi l'uno con l'altro, come dire, divergenti rispetto al bersaglio. Perché così, magari, no? Ma tu hai visto i nemici? No, magari erano divergenti. Che ne sai? Certo. Divergent, l'altra la saga divergente. Infatti, stavano posizionati in maniera divergente e tu li spari in maniera divergente. Ma diciamo questa cosa: allora, 7 di 9 che è diventato un serial killer praticamente. Cioè, lei... Io purtroppo ho fatto una scoperta bruttissima. Cioè? Che le tette di nove sono impianti Borg. Erano naturali. No, le tette. Il petto. Il petto, vabbè, ho capito, non potevano dire tette. No. In inglese, dovessi vedere cosa dice in inglese. Perché sicuramente dice breast. Secondo me si dice chest invece. Quindi, petto, cioè il torace. Le tette dove stanno? Cioè, ma il torace sta dentro. Cioè, io se ho quello artificiale, è nel petto, non è sulla tetta. Se no sarebbe un problema, insomma. intanto sono vita di mettere intanto, il cuore sulle tette. Il cuore è un organo, il petto è una zona dentro, anatomica. Ma è dentro, cioè, gli innesti sono nel petto, cioè non capisci? Secondo cioè. Me non sono le tette di Anica, no, ma sono tette Borg. Sono tette di Venus Alfa. Comunque, in ogni caso, vabbè, Rizzard teorizza da anni che tette di nuove potesse sparare le tette. Ha sempre detto, anche in diretta. Comunque è un problema proprio di tenore, cioè c'è queste strane cose. È una puntata un po' che non mi è piaciuta particolarmente. Comunque, vabbè, 7 di 9 è diventata una mega super stronza, ma non è che stronza, una che praticamente non si fa scrupoli, che tu vaffanculo, adesso voglio fare la guardiana, non so che cosa. Sì, tipo, hanno creato questa nuova specie di fazione di controllori, di resistenti, sì, di quasi macisti. Cercano no, in realtà loro tentano di mantenere il controllo nelle zone occupate dai romulani. Quello che ho capito. Intanto abbiamo capito che negli ultimi 20 anni sono successe un botto di cose, per cui in qualche modo ci devono far capire cose, in 10 puntate. L'ordine diciamo universale è un po' regredito, quindi c'è di nuovo delinquenza, contrabbando. Tutto per colpa dei romulani, ovviamente. Perché da quando la zona neutrale non c'è più. Esatto. Hanno citato Quark in questo episodio. Esatto, sì. C'è qualcuno, il nostro amico Quark, che vabbè alla fine se lo devono mettere, ma è morto l'attore Armie Perman, mi sembra, mi pare sì, recentemente. A parte vabbè, un Ferenghi vale l'altro, ci metti tutte quelle cose, esatto. Prostatiche ci metti un attimo, prostetiche meglio, no. Prostetiche sì, prostatiche era per l'età, poverina sì. Vabbè, in ogni caso, cioè questa pagliacciata che fanno è un po' non lo so, mi ha lasciato un po' perplessa la puntata. Non lo so, poi c'è questa scena in cui praticamente 7 di 9, quella che dice lei torna indietro per fare una strage? No, anche a sangue freddo, vabbè, ma voglio dire che lei sta cercando di tornare umana, l'ha detto anche a Picard, ma insomma ci sta provando, ma resta comunque, diciamo così, un ex mente Borg, quasi nata e cresciuta da Borg, non è come sì, Picard diciamo che è stato un quarto d'ora Locutus, diciamo. Che non è che c'è avuto un comportamento da Borg, cioè sterminato tutti quelli che gli capitano davanti perché erano stronzi. In preda alla rabbia, fondamentalmente si sta vendicando di chi ha martoriato, ha torturato, abusato altri ex Borg sostanzialmente per vendersi degli impianti Borg al mercato nero. Che cazzo ci fai con gli impianti Borg al mercato nero? Comunque non dica, ma tutta sta tecnologia, sti impianti Borg, non si è mai capito. Che cazzo? Beh, in realtà era molto più avanzata di quella della Federazione della Tecnologia, tant'è che loro andavano a trans curvatura. Certo. Nel frattempo Raffi è andato a cercare il figlio del genere, no, il figlio che in realtà l'ha ripudiata perché lei stava in fissa, stranamente, ma perché lei era una tossica, fondamentalmente, ma era una tossica perché stava in fissa, esatto, col complottismo, quindi non riuscendo a quagliare col complottismo si è data la droga e va dal figlio e dice io sono pulita. Cioè sarà drogata due puntate prima, però a parte questo, sì, tra l'altro, a parte questo, cioè allora attenzione, ci corregge Peppe Rizzard. Allora, Armin Shimmerman, controllato adesso, è vivo. René Auberjonois è morto lui, ma è morto anche l'attore che interpretava Nog, che è il nipote di Quark. No, René Auberjonois è morto, sì, lui. Comunque, in ogni caso. Che stava di del 39? No, io mi volevo soffermare su quella sulla nuora di Raffi. Ah, sì, che è vulcaniana o romulana? No, romulana, credo, ma con qua scuola in testa, manco con bastone. Io non so come ha fatto. La fantascienza deve chiappi quello che te capita. Mamma mia, po' fantascienza. Sì, ma quello faceva il capello. Ma in realtà era il capello vecchio stile romulano o quello? Sì, ma la scodella così è romulana, però è brutta. Che c'hanno pure i vulcaniani un po' più ordinata. Sì, un po' diversa, però. C'ha lo stesso parrucchiere, ma uno è ordinario e l'altro gli farebbe un cazzo. Diciamo che è così. Allora, sì, vabbè. Quindi, io stavo dicendo, ecco, nel 24esimo secolo, che uno si possa drogare, c'è sta pure. Cioè, lo sa, me drogo. Visto che ci hanno fatto capire che quel mondo idealizzato, perfettino, pulito, bene, che aveva per 40-50 anni rappresentato G. Roddenberry e poi i suoi successori alle sceneggiature ce l'hanno demolito in un attimo. Esatto. Che questa è la cosa un po' mi dispiace, ma non perché dice non è bello raccontare le difficoltà di una società, ma perché quella dovrebbe essere comunque una società quasi perfetta, che serviva per praticamente confrontarsi con altre civiltà imperfette che erano, che poi le rappresentavano le nostre mancanze, insomma, quelle del nostro mondo. Invece però sono dell'idea hanno che hanno sfasciato pure quello, capito? Quello quindi... è sempre stato il limite che non ha permesso a Star Trek di decollare verso il pubblico, diciamo, più ampio possibile, perché oggettivamente per molte generazioni di, come dire, di spettatori era un'ipotesi, era un'utopia che in confronto al comunismo è acqua e sapone, voglio dire, complicato, però, praticamente funzionava. E vabbè, poteva funzionare negli anni 60, negli anni 80, potrebbe ma funzionare poi... anche adesso, cioè, ripeto, il creare e il distruggere questa cosa che era poi il sogno, cioè l'idea di Roddenberry con questa utopia che praticamente si scontrava contro altre civiltà che erano meno evolute e che ci avevano problematiche che poi erano quelle degli anni 60, degli anni 80, degli anni 90. Era questo l'impatto di qualcosa che poteva essere l'umanità contro quello che invece era l'umanità per davvero. E poi l'hanno mischiato insieme e un po' a tradire quello che è, secondo me, lo Star Trek originale. Però, cioè, non è che... in qualche modo lo Star Trek originale ce lo hanno fatto, come dire, dimenticare, nel senso che sono stati posti una serie di questo non è più di Star Trek da almeno vent'anni, quindi possiamo pure metterci l'anima in pace. Tanto è che la Federazione, abbiamo capito che da qui a un anno, sono un covo di corrotti che pare il Parlamento italiano, ce la troveremo fallita, insomma. Perché se Discovery sarà la rifondazione della Federazione del trentesimo secolo, non so dove cazzo dice sta. Peppe Rizzard, a me sembra di capire che Raffaella fosse una spugna, non una tossica. Quando Picard la va a trovare lì nella roulotte dove abita, peggio, lei si stava praticamente beve coltivando... e se droga, quindi esatto, cioè, sono pulita. Però la domanda era, ma se è possibile... intendeva dire che se lava, c'è il coronavirus, se lava le mani. Bravo, nel ventiquattresimo secolo, ma può essere che non c'è sta un medicinale fottuto del cazzo che ti toglie proprio le assuefazioni e le droghe dal corpo? Vuol dire una pillola che ti fa crescere il fegato? Sì. 80 anni prima? Ok, ma una che ti toglie proprio la dipendenza, l'assuefazione e soprattutto tutte le sostanze chimiche dal corpo senza farti andare in astinenza? No, quello non si può. Cioè, ma probabilmente le droghe sono droghe moderne che sorpassano i farmaci moderni, capito? Cioè, è un continuo rincorrersi. Prendo la droga sapendo che posso guarire in qualsiasi momento, no. Comunque, giustamente, senso, no? Picard dice: cioè, dice Piergi, Picard quando la va a trovare le porta una bottiglia di vino e non si porta la bottiglia di vino all'alcolizzato. Evidentemente il problema era un altro. Anche perché lì si coltiva proprio la droga a casa. Sì, ma infatti si vede che la secondo me non si fa, non fa prigionieri. Qualsiasi cosa sia, se sballasse, se sballa. Sì, insomma, non è quello. Comunque, è una gran fattuna. Però la gran fattuna è negli ultimi 14 anni, da quello che abbiamo capito, cioè, quando praticamente è stata licenziata dalla federazione. Oppure, come dice giustamente Davide Gatti, lei era pulita perché ha preso la famosa pillola che dicevi due giorni prima. Ma così non vale, però. Cioè, capito? Non te vai a vantare. Allora, regà, tutto a posto adesso, non c'ho più dipendenze. Cazzo il cazzo, però fino a ieri te sei drogata come una bestia. Cioè, capito? Cioè, non c'ha lo stesso valore, secondo me. Però lì se la sono giocata un po' male, sta cosa. Ma diciamo che hanno creato tanti nuovi iati. Altri tanti paradossi e incoerenze, diciamo, in questi 5 paradosso episodi. E incoerenza. Volevo parlare della criminalità nel mondo di Star Trek. Perché, allora, Cristobal Rios è un po' grigio. Cioè, lui vive per il denaro, vive per comunque... Che posso capirlo perché... È un bounty, comunque, insomma, non è... Voglio capirlo perché, allora, tu sei in una società dove teoricamente non dovrebbe esistere la moneta. Diciamo che noi abbiamo sempre... detto, dovrebbe abbiamo essere sempre immaginato così. Che nel futuro, perlomeno in quello che è, diciamo, l'ambito della federazione, non dovrebbe, esatto, il commercio dentro la federazione esiste, non esiste, fuori dalla federazione esiste. I Ferenghi, siccome, pezzi d'oro, okay. Sì, ma anche però, altre cose. Siccome che fuori dalla federazione, ovviamente, quelli dicevano cazzi vostri, noi comunque abbiamo il denaro e lo utilizziamo. La federazione all'esterno dei suoi confini comunque utilizza varie monete, quello è sicuro e va bene. Ma se tu sei un terrestre, per dire, o un vulcaniano, no, un terrestre, dice voglio far criminale, perché dovresti far criminale? Cioè, c'hai tutto, c'hai da mangiare, c'hai da bere, c'hai un tetto, poi fa quello che cazzo te pare. Perché il replicatore ci sono i programmi de merda. De merda, cioè, perché vuoi far criminale? Cioè, lo fai per cibo, per necessità? No, non c'è necessità di far criminale. Per indole. L'indole per fa che? Cioè, l'indole non fai la truffa, non puoi truffare la gente, capito? Non è possibile. Cioè, sta cosa non la capisco. Quindi lo devi fare fuori dalla federazione, il criminale, non dentro. A anche perché i soldi che cazzo ti servono se sei comunque nella federazione? Vabbè, non aspetta, cioè, non capisco, abbiamo assodato che in questo presente la federazione c'è e non c'è, è saltata la zona neutrale, sono saltate tante delle zone di mezzo fuori dalla federazione. Però se sei nella federazione e Cristobal Ríos teoricamente è sudamericano, dovrebbe essere dalla federazione, perché gli servono i soldi? Perché evidentemente è un criminale e allora non può stare nella federazione, deve stare fuori dalla federazione, quindi gli servono i soldi. Secondo me non stanno a cercare di buttare dentro il concetto del denaro, ma non creano un po' di confusione probabilmente. Ma vediamo come evolverà. Hanno dovuto reintrodurre dei temi che ormai sarebbero stati anacronistici, servono a scrivere delle sceneggiature un pochino più sostenibili, secondo me, nel 2020. Il grosso problema è quello. E poi, insomma, ci riescono e non ci riescono. Vediamo un po'. Perché in alcuni casi è contraddittorio pure la cosa, insomma, perché dentro non si parla dei soldi, ovviamente, cioè, non vengo mai citato. Quando si sale sulla sirena e su altre cose, i soldi scappano fuori. Comunque, personaggio da biondina e merda. Abbiamo ritrovato il dottor Maddox, finalmente. Che a me pare troppo giovane. No, no, è lui, è lo stesso attore. Ma sei sicuro? Sì, lo stesso fucking attore. Però a cercare, perché cioè, comunque è lui. Magari è molto giovane, ci avrà avuto 25-26 anni quando ha girato, quindi ci possiamo stare. E ritrovano Maddox e fa una finaccia a Maddox. Già, perché la biondina è una stronza che nessuno si sarebbe mai creso che avrebbe fatto una cosa tipo tradimento. Nessuno ci avrebbe mai pensato. Tant'è che io, mentre Pizzi diceva no, questa sta fa tra di dice, cioè, sì, è vero, però dentro me speravo no, dai, cioè. Si poteva subodorare qualcosa, dai. Quando nella scena che non ti fanno vedere lei ha parlato con la pomodora, No, ma però, tutti noi abbiamo capito che c'è stato qualche cosa che non andava. Però io dicevo dentro me, dai, no, cioè, non può essere così, dai, proprio, cioè, buttarla là, dai, cioè. È troppo telefonata sta cosa, ma te pare che fanno che poi far tradimento? Cioè, no, io speravo di sbagliarmi. Io speravo che fosse, che sembrava che stava a fare la traditrice, comunque stava a collaborare col Commodoro, e che poi in realtà avremmo scoperto che non era così. Allora avremmo detto va bene, così va bene, cioè tutto sommato ce l'hanno incartata, dai, ci hanno preso per il culo. Invece no. Invece era proprio così, cioè non lo so. Allora, io intanto sto cercando. Mi ha fatto un po' l'effetto del grande colpo di scena come si chiamava? Il Klingon che diventa umano e nessuno se ne accorge. Vox, là, come si chiamava? Vok. Che praticamente nessuno aveva sgamato il fatto che era lo stesso attore che interpretava la cosa, cioè, l'attore che interpretava Vok era un attore fasullo che non esisteva, non aveva sgamato nessuno. Ma infatti all'inizio hanno cercato appunto di buttarla in caciara nei titoli di coda, però non nei titoli di testa, però ci sono riusciti poco. Eppure qui niente, c'è proprio la scontatezza proprio. Vabbè, l'ultima puntata non mi è piaciuta, cioè non l'ho trovata molto all'altezza. Vediamo un po' nelle prossime, però questa qui. E ancora non abbiamo visto il nostro amato Riker, Ciccio Riker. In realtà c'è stato, non vedendolo, perché è stato il regista, infatti mi aspettavo che comparisse a un certo punto, ma invece no. Quindi è probabile che, mancando 5 puntate e si debba andare a quagliare, io penso che al massimo possiamo vedere la prossima puntata, perché sennò poi andranno direttamente nella zona neutrale, dopo non penso che li becchiamo più. Io intanto sto vedendo che l'interprete nel 1989 dell'episodio La misura di un uomo della Next Generation di Bruce Maddox era tale Brian Brophy, che esiste ancora vivo, probabile, ma non è l'attore che ha interpretato il dottor Maddox si chiama John Ailes. Mentre vediamo un po' chi Brian Brophy, perché è ancora vivo, vediamo un po', perché non è morto di coronavirus nelle ultime settimane, cioè, ma cerchiamo di capire quanti anni potrebbe avere, se c'è una biografia. Ma era giovane. Si Full Bio, ragazzi, questa è proprio Radio Verità. E niente, non si sa, ha interpretato le aree della verità, è stato in Armageddon, nel collezionista, quindi ha fatto un paio di ruoli di un discreto peso, però non sappiamo bene né quanti anni avesse e né quanti anni ha adesso. Provo a cercare su Google e non su IMDb, magari è più... Io ho fatto su Google, per dire, quindi ho trovato informazioni su di lui. Forse addirittura su Wikipedia, ci pensa un po'. Pensa un po'. Ma tu pensa, del 59. Eh beh, dai, su, c'è 60 anni. Ecco, vedi, insomma, non è che sta male. No, no, vabbè, non dico che stia male. Perché probabilmente che gli faceva schifo riprendere. Più, no, mi ricordavo no. Che il personaggio fosse più. No, era dai, era il 59, negli anni 90 c'era una quarantina. No, quanto c'era? Una quarantina d'anni. No, meno, se del 59. 59. Beh, perché il 60, sì, c'ha ragione, sì. Vabbè, così, dai, boom, insomma, ci abbiamo ragionato fin troppo. Vabbè, comunque, diciamo, un episodio che ci lascia... Ti è piaciuto questo episodio? Rispetto agli altri? No, ho trovato, ripeto, un pochino, come dire, troppo... Una linea un po' troppo... involontariamente comica quella quando Picard si camuffa da Capitano Uncino, sinceramente, con la benda sull'occhio. Non è Picard quello. Che poi quando parla, prima di partire per la missione, con sta benda sopra l'occhio messa così di tre quarti, beh, levatela, cioè non, perché ce la devi avere? Vabbè, no, ma ha lasciato diciamo tutto questo pezzetto. Era la parte comica della... Sì, sì, è per carità, la linea comica che alle volte è necessaria, anche perché sennò di spruzzi di sangue ce ne sono stati non pochi in questo episodio, quindi capisco che hanno voluto un po' ammorbidire. Però, come dici tu, non è stato particolarmente come. Non è Picard, cioè, a meno che non è Picard rincoglionito che fa queste cose, deve fare gli scherzoni, capito? Vabbè, eppure un Picard che fondamentalmente ne ha vissute tante. A un certo punto, diciamo, ma chi me lo fa? Lo deve lasciare un po' al personaggio, ma deve lasciare un po' andare al personaggio, come direbbe Feretti. Però, non lo so, cioè, voglio dire. Del Picard originale c'è poco dal secondo episodio in poi, probabilmente. Nel primo episodio, quando lo intervistano ancora. Quello però poi... ci può stare, perché comunque, ripeto, è un Picard che c'è un capitano, un ammiraglio che è un po' andato in disgrazia, un po' andato, si è ritirato a vita privata, si è gonfiato le palle pure lui a un certo punto, quindi è quasi passato in sordina, è quasi diventato una cosa secondaria, per cui ci può stare che, insomma, alla fine si ritorna a fare il capitano piano piano, quindi non è più lui il comandante, il capitano della nave, ma lui è il comprimario, tra virgolette, della ciurma, è quello che dà gli ordini, ma non è quello che non è il tecnico, non è il come cacchio si chiama, quello che crea i piani, quello che c'ha l'idea, non e è poi lo dopo... stratega, non è lo stratega, infatti. Ma vediamo, insomma. Invece, così, rimanendo in ambito di intrattenimento, raccontavo che ieri sera ho visto il primo episodio di Hunters, questa serie sui cacciatori nazisti. Sui calciatori nazisti. Ah, no, quello è Fuga per la Vittoria. Fuga per la Vittoria. E quindi raccontaci questi calciatori. Onestamente, è una serie che dal primo episodio mi ha lasciato un po', come dire, interdetto. Perché ha raccontato questa storia ambientata negli anni 70, nella fine degli anni 70, di questo gruppo di sopravvissuti all'olocausto, che nell'America appunto degli anni 70, di fine anni 70, dà la caccia ai sopravvissuti nazisti che si sono confusi nella vita americana, diciamo tra virgolette, per sparire dai radar e non pagare per i loro crimini di guerra. E fino a qui è una trama anche, diciamo, ma sostenibile. È realistica sta cosa o è inventata? Allora, il problema qual è? Non credo sia basato su storie vere, perché perlomeno delle cose che si vedono nel primo episodio si teorizzano delle cose che poi, insomma, col senno di poi non sono neanche lontanamente successe e non mi sembra siano fatti storicamente ricostruibili. Ma non è soltanto quello, è proprio diciamo la modalità narrativa che mi ha lasciato un po' basito. Sembrava quasi c'era un non so che in tutta la costruzione di queste storie, che poteva essere un filo Watchmen, un filo Tarantino. Quando diciamo nei nostri gruppi di Telegram ho detto qualcosa di distopico e parodistico. Quando dicevo parodistico non intendevo dire chiaramente comico, intendevo dire che però racconta degli eventi ipotetici assolutamente assurdi per certi versi e per come vengono raccontati. Vi racconto insomma un punto cardine del primo episodio. All'inizio del primo episodio un funzionario del governo americano con la moglie vanno ad una festa a casa di uno dei senatori da poco eletti, lui era un membro del suo staff, e quindi vanno a fare questa festa in piscina. Per la serie vado un po' a leccare il culo al mio capo, faccio carriera, il concetto, no? E quindi quest'uomo si porta a questa festa in piscina la moglie, che non aveva mai conosciuto. Che magari faccio leccare il culo a lei e faccio carriera. Ora cosa succede? Questa fino a quel momento non aveva mai visto il senatore. E già, voglio dire, il senatore degli Stati Uniti, com'è che non l'hai mai visto? Vabbè. Fatto sta che appena lo vedono, lei si glacia. Riconosce in lui un ex gerarca nazista di quelli che ha torturato e ucciso non si sa quante persone, e le viene una crisi quasi a metà tra l'isterico e la crisi epilettica, no? Per la paura, per lo scandalo. Allora che succede? In quel momento lei comincia a dire: ma è il mostro di Salcazzo, mannaggia, è il mostro di Salcazzo, mannaggia, ma che non lo vedete? Comincia a dire delle parole in ebraico. E lì parte la scena alla Tarantino. Il tizio dal barbecue, da sotto al barbecue, tira fuori una pistola e ammazza tutti quelli che stavano alla festa in piscina, sua famiglia compresa, perché non poteva lasciare testimoni, per poi telefonare a uno che diventa una sorta di Mr. Wolf della situazione e va a fare Piazza Pulita. Sì, credo che Occhio e Croce sia inventata la cosa. Cioè, ragazzi, e questo è solo l'incipit, Vabbè, cioè, è una moda, secondo me è un altro universo. Non lo so, e in tutto questo poi ovviamente i cacciatori nazisti sono, nel frattempo parallelamente vengono diciamo introdotti i personaggi positivi, quindi questi cacciatori nazisti, il cui leader, diciamo così, il capo carismatico è questo Al Pacino con un pancione piuttosto prominente, affaticato dall'età, perché insomma stiamo parlando di un ottantenne, che fa quasi ridere paradossalmente perché di cognome il personaggio fa Hoffman. E allora chiamate Dustin Hoffman, scusa, tanto Dustin Hoffman non fa più un film dal 1982, non lo so, cioè, sono quant'è che non fa più un film? No, qualcosa ha fatto Conteggio, Virus Letale ha fatto ultimamente. No, Virus Letale è quello con il russo degli anni 90. Anni 90, sì, ho visto, fatto Virus Letale 2, cioè una cosa. Cerchiamo che cosa ha fatto. Beh, io l'ho lasciato ai film con Ben Stiller, ti presenti i miei, i tuoi, i loro. Ci presentiamo a vicenda. Vediamo un po'. Allora, no, guarda, sta lavorando perché ha fatto... Ah, ha partecipato alla serie TV sui Medici della Rai nel 2016. Era Giovanni De Medici. Ha fatto L'Uomo del Labirinto nel 2019. Ah, le storie di Merowitz, che era un film sempre con Adam Sandler, prodotto da Netflix. Ha fatto As Sick as the Medas, che è in pre-produzione, quindi lo deve ancora girare. Quindi in qualche modo sta lavorando pure lui. Ah, non è che ha fatto molto meno di Al Pacino, se andiamo a vedere. Come età stiamo lì, perché Dustin Hoffman è del 37, Al Pacino, che è famoso giocatore d'azzardo giapponese, invece, vediamo un po', è del 40. Quindi insomma, tutto sommato. Oh. Invece, comunque, carino segnalare però, che anche in questa serie Al Pacino è doppiato da Giancarlo Giannini in italiano. Quindi, insomma. Ma non è morto Giancarlo Giannini, è ancora vivo? Sì, sì. Siamo contenti, mica per niente, anzi. Cioè, povero Al Pacino. Alpi. Povero Giannini anche, insomma. Dice Peppe Rizzard, l'attore che fa Maddox è lo stesso sia in The Measure of a Man che in Stardust City Rag. Quindi La Misura di un Uomo e poi l'episodio di Picard. Ma no, mi sembra di no. Mi sembra proprio che abbiamo dedotto che non lo fosse. Dove l'hai visto il nome del tizio? In che senso, Marco? Allora, adesso provo a cercare qua Bruce... È facile, andiamo a Star Trek Picard su IMDb, ok? Da qui scegliamo la cronologia degli episodi e clicchiamo il quinto episodio, che è Stardust City Rag, e ci viene detto che l'attore che interpreta il dottor Bruce Maddox è John Ailes, che cliccando su IMDb è questo tizio qui. Vabbè, la foto non so di quando è, però eccolo qui. Mi sembra un po' giovane. Lo mettiamo non mi sembra sulla chat a uso e consumo. Dice Lizard, ho fatto le mie ricerche, uomo, le sue ricerche, uomo di poca fede. Ho capito, ma io... Dice Lizard che Wikipedia dice diversamente. Sì, potrebbe anche essere un errore, anche perché forse la faccia non sembra... Però IMDb tendenzialmente è di Amazon, quindi su certi argomenti mi auguro sia coerente, altrimenti non so. Allora, Ikeb ha due attori differenti, che praticamente è il secondo Borg. Però io sto ancora cercando, vediamo un po'. Brian Brophy, e qua dice Brian Brophy, però anche perché basta cercare su MTV Brian Brophy e vediamo se ha fatto anche la seconda cosa. Ma chi è Brian Brophy? L'originale Maddox. No, però guarda, dalle foto di John Hales che vediamo su Wikipedia mi sembra lui. Ah sì, no, qui è più probabile, è più probabile, magari è la stessa persona con due nomi differenti. Ma chi lo sa, non ci si capisce niente. Fatto sta però che su Wikipedia non è accreditato in Picard, però è vero pure che magari questo lemma non è stato aggiornato. Infatti c'è scritto questa voce è solo un abbozzo. Bozzo. Vabbè, faremo un'indagine e scopriremo. Vabbè, la prossima settimana lo scopriremo. Vabbè, a questo punto, visto e considerato che non abbiamo ricevuto più di tante plausibili spiegazioni, è il momento che Marco Gualdi decida chi gli deve pagare la cena tra lobby frontali e Pepe Lizard. Allora, Memory Alpha innanzitutto ci dice che Brian Brophy l'ha fatto nel 2365, l'ha fatto, mentre John Hales l'ha fatto nel 2399. Okay. Questo Memory Alpha, quindi è John Hales, non è quindi la stessa. Esatto, perfetto. Non so, allora, dobbiamo allora riassumere invece le risposte. Quali sono state le risposte? Allora, la risposta di Pepe Lizard è stata quella che non mi ricordo. Ah, bene. Pepe Lizard, ripetici la tua risposta, che ci siamo dimenticata. Invece quello di lobby frontali è quella che... Autolesionismo, che però dopo ha voluto rivedere in autocoglionismo, che mi sembra un po' più plausibile. Sì, però non mi convince. Lizard, secondo me se la tua risposta è stata buona, hai vinto questo debito. Vediamo un po' se... Era il famoso il giornalista che si era autolesionato, autosminchiato per entrare in un pronto soccorso. Beh, allora diciamo scoop che in mancanza di altro vince Lizard. Guarda che se ti porta a mangiare arancine è svoltato. Ma l'importante è che andiamo sempre a un ristorante non milanese. Anzi gli arancini, perché lui comunque sta nella parte in cui si dice arancini. Quindi, vabbè, quindi sud? Va bene, sì, lo fa. Sì, no, nel senso che sai che in Sicilia, nella zona di Palermo, dicono arancine e lì sì, fanno sicuro, forma sono, di palla. Quindi è sotto la parte sud, va Messina, bene. Messina. La parte sud d'Italia va bene, perché sai che adesso nel nord è sempre meglio non metterci piede. Quindi ultimamente va bene così, siamo contenti. Perfetto, ho aggiudicato. Bella, hai vinto una cena da pagarmi. Complimenti, grazie. Beh, ma ne sarà felicissimo. Va bene, ragazzi, che dire... Io adesso tirerei un attimino le somme delle sottrazioni. Che ne dici, Marco? Non so che cosa hai detto. Figa. Amici, questa settimana Trump non ha fatto un cazzo, può essere? Ci è sfuggito qualcosa? Eh no, adesso ci sono le elezioni, le primarie, cioè adesso è tutto il momento Bernie Sanders. Magari ne parliamo settimana prossima. Va bene amici, fatemi ringraziare ovviamente tutti quelli che in chat ci hanno ascoltato malgrado non avessimo altro da fare che seminare il panico. Salutiamo Peppe Rizzard, salutiamo Davide Gatti, salutiamo Pier G, salutiamo Lobby Frontali in tutte le sue manifestazioni di lobby temporali e non. Salutiamo... Sai che questa è la malattia mentale, sì. Assolutamente sì. Però volevo salutare anche Stefano, volevo salutare quelli che ci ascoltano in differite, i pavidi che non si palesano, e anche Mamma Anatra che prima ci ha salutato con un altro buon salve a tutti. E non solo Mamma Anatra, chi altro c'era prima? Sai che... Ho paura, chi è Mamma? Non non facciamo domande, non lo sanno, non lo sapere. Ormai non saperlo, si infatti. Esatto. Però se, siete tanti, noi ne siamo lieti. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Okay. Con me, Walter Svano, ci sarà Marco Gualdi. Ci sono anche io. Aspettate che mi sto un attimo preparando per uscire dalla sicurezza di questo bellissimo ufficio sterile. E quindi... Ma tu non ti metti in niente? No, io ormai sto male. Ah, allora, per fortuna che stai, ma quanto sei fortunato. Va bene, io vi saluto, Oh, ma è stato sì. Molto bello. Un momento, ma il Pizzi?